di cosa sta parlando. Allora che sta parlando, dico, ci farà un avvanto di cose, di come si chiama? Di chi c'ha a fare di l'arastro, no? Io do ogni tanto Giamma le, scambia le zappette dell'arastro. Mi dicono, Gianni, tu non è che c'hai una caldarella di bulloni di dadi per fare un altro arrosto? Ma piccolini, dice io, quelli dei baracchini che ho tutto smontato e che ho lasciato a pinte. No, oh, non è. Come devi fare? Asfalto. No, poco di pure, poco di Gianni, ce n'è qualcuno, Mario, Angelino, Franco, qualcuno, sicuramente avrà. E se ne fai più di una caldarella. Aspetta, rispondi alla telefono. Ti muro il gioco in mezzo, per fare il capo lì. Bene, ti c'è chi è di più. Ma, vabbè, Gianni, sai che ho riscontrato una cosa sullo sfero, che ho 10 CD circa, però uno mi legge solo la prima canzone, cioè sono 10 normale, gli altri non me ne legge. Sì, ma come fare anche la CD? Come mai l'ho sentito sfero mio non lo legge? Allora è un led, non è pulito il led. Ma tutti gli altri me li legge, quella che sto mettendo un led. Quello è. Ha una simpatia. Ah? Ha simpatia. Io non sto rompendo questa parola. Non riesci un numero. Aspetta un attimo, avanti l'attenzione, chi è? Ciao Luca, ma non ho mai conosciuto, vedi tu. Figurati tu, quello lo sì. Stai facendo male il vulcano, lappati tutto! Sembra che stai parlando e manda laterale! Gianni! Dimmi là! Sembra che stai parlando e manda laterale! E anche io sento un bel male, infatti chi è questo rondo? Non l'avevo riconosciuto! C'è un brecchi sottofondo, no? Non lo stavo volando? Da Iti! Cappa! Vabbè, Gianni da questa parte in compagnia Claudio, Luca del Monte e Mario Marcio, davanti. No, lo sento la sua dita. Ciao lui. E Luigi, scusa. Così sì, ma poco fa ci ascoltavamo come io fossi parlando in banda laterale. Vabbè, quello lì non c'entra niente. La modulazione qui in radio sembrava ieri in banda laterale, ci ascoltavamo malissimo, capito? Così va bene. Stanno di gastardi lui per la breccia, vai, avanti Mario. Aspetta, già, non mi senti l'FD, ti sto chiamando. No, ce l'ho spento, è dentro. Mi sta rifattando lui, ma sta caricando bene lui. Ma perché ho messo da Ittiri? Avanti Ittiri! Chiedia! Ma ora non l'ho capito, ma anche per la Ittiri poi non ho capito chi era. Avanti l'amico! Però sento basso, scusa, ma non riesco a capire cosa dici. Boh. Mi sento bassissimo. Avanti! Poi Angeli, dove sei? Bene, Angeli, bene. A parte il mal di faccia, tutto bene. E cosa mi stai facendo? Olio, filtro e tutto. Qualche fiammazione, sarà sicuramente qualche periodo di vita, roba del genere. niente, raga. Stanno fischiando quando parli, non ti fanno, se non mi fanno sentire quello che dici. Angelino, mi ascolti? Che sta parlando Luigi, microfono normale lui, ora torno indietro qua al lago. Angeli, anzi vai Mario, riprendi, stiamo lasciando il parcheggio qua a Gappa. Non c'è nel problema, fai parlare a Gianni che stavo parlando con Angelino, vai già. E niente, se non fanno parlare, cari, fischiano sopra, è inutile che... E beh, male, stasera riposo. Tieni avanti. Sono qua al telefono, scusate, ma mi ha chiamato il sindaco di Pomare, che è molto preoccupato perché non mi ha visto più. Aspetta, aspetta, guarda, che c'è qualcuno che sta parlando. Avanti, chi vi chiama? Santiago 5, Radio 1, vai. Santiago di 5, ma Radio 1, chi sei? Sì, che ti sento, chi sei? Massimo, vai. Massimo, io non ho mai, ma io ti arrivi così basso, Massimo. Pure qua è basso, basso. Massimo, mi ascolti? Come da guardarmi. Ti ha risposto, già ti ascolta. Ma come sei in campagna, Massimo? Cosa devi per me, dai. Massimo, ascolta, visto che sei in campagna, non è che c'hai un macchinario del sabbione, no? Di ghiaia neanche. Perché, comunque, almeno con questo traverso, o mi servono bulloni, rondelle, dadi, oppure ghiaione, capito, di quello grosso. Gianni, tu non mi hai in cortile. Ma mi serve, accetto una motocarrozzella, bisogna arrivare a Mignogno lì. Dimmi. Dario, adesso ti do il numero di Calvino. Adesso mi faccio vedere anche il numero di Calvino Mignogno, mi faccio fare un viaggio di ghiaione. Sì, ma scusa, per farlo bene, a questo punto, Angeli, anziché prendere una caldarella, ne prendo una motocarrozzella, la stessa cosa, no, Aelia? I cazzo, ci tocca carreggiare tutta la gaggia, no, troppo, il mio socio la sia dire. Ha detto un po' di roba così, messa proprio a tipo bulloveria, mi. Infatti, gli stavando la barmiera e me la fattura. Alluminio ne hai? Alluminio! Non gridare, Claudio, non strappi. Non ne hai alluminio? Già va bene, là. No, perché c'è un po' di alluminio, le facevo due barra una striscia dritta a metà e una striscia a conchiglia in croce, mi. Lui! No, ma secondo me, no, è così, pensano, perché i bulloni, i dadi, le rondelle, la graviglia, non è che vai, uscisci, ti ha avanzato, già lavato e articolato, magari hai caricato bombice, non hai. Vulcanica, ma tu con un capo a cuore vuoi rimanere con un capo sotto? Cazzo, ma te parlo dopo, c'è un tavolo, un amico, hai detto vulcano sei tu, cosa vuoi rimanere con un capo sotto o con un capo sotto? La riga rotonda, dicevi squadrata. Ciao a tutti, va. Ce la risentiamo più tardi, io devo andare a pigliare il padrone di casa. Ciao! Ma se la vuoi uscire, c'è anche il frega alluminio! Non gridare, che sta facendo male! Mario! Eia! Aspetti, abbasso! Ho detto, guarda se uscendo lì! In quel piazzale trovi qualche verga di alluminio. Vabbè, io ti farò sapere. Non problem. Oh, io sto andando a tirare per la casa, ci sentiamo più tardi. Ciao. Ciao Mario, alla prossima, ciao. No, adesso no. Oh, ciao Mario, ci sentiamo dopo, là, stavo gridando troppo. No, adesso no, sto aspettando a Franco che deve venire a prenderci la moto al garage. Perché? Prendi caffè. Ah, fuori mi sembra a Gemmo. Ah, io, Luca. Prima devo scendere, già lo sai dopo. Mamma mia, ragazzi, tu sei pericoloso. Sì, pericoloso, sì, o lui. Sì, chi è che mi sta chiamando? Massimo, avanti. Io cazzo, boh, ma che mai uno da Italy bucci così, boh. Angelino Valghero arriva a Santiago 9 e tu sei arrivato a Santiago 5. Angelino, ma lo senti a Massimo? Angelino. Non eri Angelino. Che ora? Sto aspettando, te l'ho detto. Sto aspettando a Franco, mi ha detto adesso le 3:30 veniva che si deve prendere la moto dal garage, ma non lo so. Se viene, magari sono già fuori e ci scendo, buh. Ma mi domanda, basta l'udine. Una segretaria a 7,50 m, chi sa che fa giro 1,50 m, è per la buru. Ascolta, Palmeria non è a ghiaia. Cazzo del casino, riesco a finire questo stradosso. Ecco lui, ma non deve il rame di Laibulo, chi verrà Giovizzini? Allora buongiorno, ma Longo ne dice quel rame, non deve. Gruppo di calciofi vetti. Scarciofi, no, ne ho scarciofi. Ma deve fare la ghiaia. un'altra. Ah, c'hai Antonella, la calderella di bulloni, dadi, rondelle. No, no, una calderella, mi. Ah, ce l'ho la ghiaia. Vabbè, campagna. Ehi. Vicino non ce l'hai, no? A cazzo non te l'ho avuto, il burro non ce l'hai, gira, per la ghiaia, boh. La signora Gimiare che va. Minchia. Tu quanto hai aumentato? 9,60, sì. Eccolo, devo attaccare questa grappetta e fare l'altra. Capito, questa c'ha un tiro storto. Adesso in una diversa di antenna. La piazzata. C'ho solo 20 watt, perché scende solo con quelli. Asciuga. Se metti un'antenna grande, te la giochi, eh. Te la giochi con qualcuno. Sul segnalone, eh. Non arrivavi così prima, eh. Secondo me è aumentato moltissimo, anche io da te. Adesso vedi, c'è 9,60. Con 20 watt. Io ho visto ieri l'antenna tua, sono passato di fronte a casa tua al bar, stavo avendo una birra e l'ho vista, si vede laggiù, si vede un bel. Certo, metri, prima era 2,5 metri, 3 metri neanche, c'è 8, c'ha 4 innesti a 2, già va bene, già va bene. E poi vabbè, ho messo la cosa che mi interessava di più, erano i dipoli, le antenne che mi servono per fare attività amatoriale, che non c'avevo niente. Gappa gappa, già va bene, no, non è, ma è un segnalone allucinante. Sei lì con Franco, 9,60 a pieno. Bene, bene, bene. D'accordo, d'accordo. Luca! Ma però, non si dice, no? Comunque io ho parità di potenza, vi schiaccio quasi, quasi tutti, quasi però, più della metà, dimmi tra. Provo a parlare con Antonello, vero? 1, 2, 3, 5, 3. Male. Non lo sentivo prima Antonello, adesso lo sento. Adesso prova a parlare con me, a vedere Luca. No, per la Pomponio, vai. 1, 2, 3, 5. Guarda a vedere Antonello se mi senti adesso rispetto a Luca con 20 watt. Guarda Antonello, a vedere se mi senti rispetto a Luca con 20 watt. Ma non avevo dubbi, non avevo dubbi. Era troppo bassa. Sì, chi è Galgero che mi chiama? Avanti. No, Antonello Alessio è. Non sono quello, sono il piccolino io. Allora diciamo che dal monte è nato l'uomo del monte, va bene Antonio? Sì, mi sa che ti mangiate a Franco però, eh. Non vorrei sbagliarmi, ma la segnale che c'è mi pare che si è trovato di Franco pure adesso. Ehi, a chi è? Cos'è? Ehi Massimo, le prove ci fanno anche città, vai. Abbiamo una differenza così di segnale, siamo tutti vicini e stiamo provando, no? Ma siccome avevo l'antenna bassa, adesso l'ho messa come deve essere, ho notato la ricezione molto più alta di Antonello e di tanti altri, volevo così a livello locale fare una prova. Già va bene. Sì Antonello, sì, 9,60, anche tu te la dovrai giocare con Franco, sì, molto molto più forte di prima. Adesso vediamo domani, si sollevo l'antenna, vediamo se recupero qualche cosettina. Ottimo segnalone con quell'antenna, veramente, ottimo segnalone. Beh, cattivo attaccato a terra, L'avevo messa lì per fare le prove, quando l'ho traslocato, adesso chiaramente sto curando la parte che mi interessa di più. Sollevata di 8 metri e non ve ne è. Una zona molto, molto alta e molto aperta soprattutto. Dimmi, Angeli, trovatela i bulloni. Ma mi hanno detto che c'è un po' lì di roba, come non ci mettere una caldella d'impatto? Aspetta qua. Cosa stai facendo Luca? Parla bravo, dimmi Angeli. Si sa che la bassa. No, ti devo segnare il buio. Bastardo. aspetta, Non vuole salire qua, Guarda un cazzo, Ormai c'è lui di sono Renato, Di non so sta mappa, Parte molto utile. Aspetta, Ho ammallato il suggozzo. Benissimo, quanti anni a me adesso? 60, 80, 100? 60 pieno. Vai Luca, io. Oh, va, aspetta. Ma vuoi salire qua, Come vuoi salire? Ora, aspetta. Vediamo un po'. Ora, 1, 2, 3, no. Allora, un attimo anche lì, un attimino. Allora, così. Aspetta qua, Guarda, dai gli occhi blu, ecco. Sale bastardo, Vedi? Non può salire, no? Sono 130 watt modulati, cioè io. 100... Dai, 150, forza. Prova a parlare. 150 watt modulati, cioè io. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50. La cipolla, la cipolla. Tu ce la fai qua, Luca? Gappa, non ce la fa salire questa cosa, non ce la fa. Guarda, fermo, te lo dico subito. Poco più di 40. Neanche quasi 45. Qua è il tuo segnale, Qua è il tuo segnale pieno, 60, pieno. Come quando abbiamo fatto le prove, quindi non cambia niente. Non guardare quel cazzo di strumento, è uno strumento di plastica, t'ha giurito. Per me stai andando, 130, 120 ce li hai tranquillo, Bisogna portarlo a Luca, lo prometto. Bisogna portarlo a vedere com'è. Sì, ya. Allora, aspetta lui, quanto sono compo da te? Da un po'? 50. Ma 50 fissi o modulati? No, 50 fissi. Modulati sì, 53, 54, cosa c'è? Ehi, va bene. Angelino, da te quanto è il segnale? Quanto è il segnale da te? Guarda un po' di bulloni. Auto di segnale 5 di radio, da te lui con te invece. È bastardo. Tardo. Dopo aspetta a vedere chi passa Claudio, vai. Io non lo passo a Claudio, sai. No, la chi passa a Claudio, io o tu? Ah. Claudio. No, così lo crepi, no? No, ma io mi sento sotto, perché lo sai. No, non è tanto, se no ti sento sotto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Le radio ti passa Luca Antonè. Bravo, ha detto Luca. Ma che? Sì. Antonè, il cazzo mi deludi, porca puttana. C'è un segnale, il cazzo non c'è in radio, boh. Devo dritta io, segnalone. 50, sto di tutti. No, sei basso. L'unica di più di te di fatti. Radio ti mangia, ti disintegra Antonè. Cosa vuoi che ti dica, Bru? Perché tu quando aumenti ti mangi la radio, invece lui più aumenta, cazzo più raro c'ha, è una potenza c'ha il gosto. Ah, vabbè, ma lui c'è il lineare, se avessi avuto il lineare da 600 volte, senza quello me l'avrei mangiato con i macchinoni anche a lui. Ah, io ho gatto, ma veniva da 100 watt, cioè, guarda Luca c'è un segnalone qua, rispetto ad altri, tu ti ricordo che siamo tutti allo stesso livello, chiaramente Luca è indietro perché c'ha un baracchino, però quando ci dice, cazzo ci mangiamo un bel niente, Ma Luca c'è la matta qua, io c'ho uno stilo piegato di una Grand Prix, il discorso è diverso, tu vieni qua te la faccio vedere, in che condizioni sto uscendo. Se io dovessi stare meno in terra, il discorso cambia, no? Senza un vero dubbio, su quello non ci piove. Io sto dicendo, a parità di attrezzatura ve la dovete giocare, però Luca che è un attacco è micidiale, forte, forte, forte. Angeli! Angeli! Ciao, dopo che sto uscendo, via. Dimmi Angeli, cosa hai detto? Angeli, guarda quante candele d'impatto ti arrivo. C'hai lo smitter che ha inchiodato 8 tu. Cappa. Dimmi Massimo. Lo so. Ma Angelino c'ha un parecchio tarato sul frequentimetro 8, capito? E ci abbasso, girati me ne ballo io al durante. Aspetta che abbasso. Ecco qua. Ola, cipolla. E quindi Antonè, ma e allora questa. Ma la vuoi un'antenna? Te l'ho io. Ce l'hai, posso permetterla? C'è la lanterna, c'è una testata d'onda che è lunga quasi 7 metri di stilo. Non so quante raggi avviciate perché non ho ancora aperto il pacco, me l'hanno regalata ieri, capito? C'è una testata d'onda quasi lunga 8 metri, una cosa del genere, mi ha detto, dice che è lunga, è troppo lunga, mi ha detto. Non lo sto installando, avrebbe messo una testata d'onda senz'altro, perché per la provare, non so se è quella che c'ha il dischetto tondo della Siri o cosa sia. Io ho quella in garage, la 24 radiali, la super, come si chiama, la super stella, mi fa, nuova, è lì che ti serve. Procurata mai quella Grand Prix? Ce l'ho l'acquisto da voi, che gli ho detto ieri sera, hai toccato la là. Cappa dell'oggio. Oh, lui, c'è un cane morto comunque, cazzo stai travasando il vermentino, va bene. Non bevo questa sera, devo uscire con degli amici a mangiare la pizza, poi cazzo già bevo prima di uscire, è un casino, se no sarei sceso. Comunque mettimelo in frigo, tra mangiare una bottiglia e domani mattina già passo a assaggiarlo. Dimmi Massimo, dimmi cosa hai detto? Mamma mia cazzo, non ti metti un'antenna come Cristiani e ti fai ascoltare qua, gappa, ok, già va bene, adesso telefono a Franco perché sta venendo a prendersi questa cosa, così poi mi preparo, sono già tardi, devo fare una commissione e poi devo scendere, devo andare a trovare questi amici, gappa del Rogero. Non abbiamo sapete le patate allo spin. Ah no. Però la mattina ci vuoi andare, io sono andato a fare la spesa lì, se no mi sarebbe capitato a me se poi sapete le patate. Adesso basta che tu risalti, siamo. No, sono uscito con Franco Delta a fare delle commissioni, dovevamo andare a Walter, e là invece Walter è in punta di Gasino, è fuori in continente. Allora ci siamo incanati al basso a prenderci il caffè e da lì abbiamo iniziato, poi è venuto un gran flip e abbiamo cominciato a favizzare a B, a favizzare, cazzo, ci è fatta l'una e mezza. Figurati. Sai come vecchi tempi, Antonè, no? Quando via in via Rezzese passavo la sera, quando uscivo al lavoro alle 4:30 mi andavo alle 8:30. Devi fare le 10, no, le 3:30. Aspetta, ma stavo vicino che si muovia lui, Carlo. Dei tempi che c'era coso, Angelo, poi se ne veniva la moglie, come si chiama, non mi ricordo più, poi coso, Maicomio, poi c'era più Andrea, oramai, cazzo, l'ho visto l'altro giorno, cazzo, lo sai, mi fa impressione, poveraccio, cazzo, porca puttana, non ho capito perché. Come l'hanno operato, non era da operare, cazzo. Sì, lui dice così, poi bisognava essere vero. Comunque, non è che siamo bene, l'ho detto, ma se vuoi siamo burbone, c'è una specie di cosa da agganciare adesso, mi ha detto, elettronico lì, quindi si fa la voce non simile alla normale, però si fa capire subito, senza fare un questaggeggio, questa specie di vibratore piccolino. Non che c'ha a fare il barone che sta a terrestre, fa vedere. Me la gente piange, anche lui ride, poi quando parla con me convino, ride. Cazzo dice, ti ricordi quando ci ho avuto la modulazione bella alla radio? Cazzo, poi c'ha questo eco in chitarra. Cazzo, comunque piange, dici me lo stesso perché ti scelto con l'eco, e tu ridi, cazzo. Ride, non ride, ce l'ha con le baracchine. Gli altri mi piatto, però no, dice, no, non mi piatto più, ma detto, io un accidente, detto, non cambierebbe nulla, detto, entrare così, entrare normale, cosa cambia? Aspetta che sia un microfono di quelli piccolini. Vabbè, l'ho detto anche io, non è un problema, siamo sul canale 10, ti fai due chiacchiere la sera, se capiamo il problema, se usi la macchinetta per parlare non c'è problema, oppure parli naturalmente avvicinandoti al microfono, già ti fai capire. Mi ha detto che si vergognano, non ci vuole entrare, certo, veramente, e purtroppo è così. Ma fumava Pier Andrea? Sì, ti sto dicendo che un giorno mi ha telefonato al telefono, io ho detto così scherzando, cazzo, io ho detto Pier Andrea, c'è la possibilità, ma anche tu devi fare compagnia, gli ho detto, cazzo, mi hanno parlato il tumore anche a me, dimmi una buona, gli ho detto, vabbè che eravate tutti e due, potevate cioccolato, Dimmi Massimo. Sì, di radio sì, segnale è sempre uguale. Oh Claudio! Hai già lui che hai gattegato al Massimo, cosa hai detto Massimo? Perché non si può trovare, dai ragazzi te la compareggi come ho fatto io, 80-90 euro e te la compri Massimo, perché c'hai problemi di antenna. Grazie, a Predanieta, dove c'è l'Autoyang, dove c'è l'Ejecuti, dove c'è la Uppas, di fronte c'è Grassi, ore di Grassi. Entri dici, mi serve una mantova, lui anche di lei, mi ha mandato Claudio, mi conoscono molto bene, mi ho comprato 4, 5, mi pare, 6, boh, non mi ricordo. 80 euro più IVA mi pare i costi, sono 90 euro, dai. Melchione, ma Melchione è fallito, cosa Melchione? Melchione è diventato Minchione. Ah, è vero, c'era qua un amico nuova imballata, però che non è la mantova 1, è quella da 80 euro, è quella da 100 euro, la mantova turbo, ancora meglio, ti serve? Ok, se è da voi non c'è problema, ti fai sentire, vedere, è disponibilissima, c'era un amico che l'ha comprata, solo che non ha la possibilità di montarla, perché lui è sempre fuori, 100 euro, costa 100... 140-150 euro con l'antenna, 130-140, quindi vai a risparmiare 30-40 euro. Nuova, dentro la scatola, la mantova turbo, tutta in alluminio. Oh, Claudio, quando devo fare, perché io ho 40-140, grazie a te, io ho 40-140, cosa dici? Sarà da parte a me. Ah, lo so, se glielo sto dicendo, costa 140 euro, l'avevo comprata io per mettere qua, e poi invece... prendo la 5, perché può fare la prova con la 5, io la mantova turbo ce l'ho carbonata. E allora, siccome ci ho detto, non me l'ha tornata e mi ha dato un'altra mantova 5, e l'ho fatta a Luca, ho capito, le Roggero. Capito Massimo? Massimo è... Ittiri. C'è una nuova, non è che le sto dicendo ballero, è nuova, ma è usata, figurati. Massimo, quando vuoi, non ci sono problemi, me lo fai sapere, più fretta possibile però, perché c'ha già delle persone che la vogliono, capito? La padre Roger, fatti sentire, al limite scendo, me la prendo io, la porto qua, così non ti faccio scendere neanche, perché lui abita in campagna. Vieni qua e te la prendi, capito? La padre Roger, tanto io poi, lui lo sa, io... Quando faccio queste cose a me un pochino di vino, un litro di vino già mi basta, vero lui? Scappa, ma anche Massimo gli detto, io ho preso 3 mesi di faccia, sto facendo solo 40 euro, anche lui può dire che non potrebbe portare, può scendere anche in campagna, anche ma se non può fare non c'è problema. Allora senti a Luigi Massimo. No, c'ha l'antenna piccolina lui. Ha detto Luigi che questo che c'ha l'antenna, che se vuoi puoi andare a ritirare la casa tua, basta che porti un boccione di vino da Ittiri. Ma poi facciamo la comparazione, no? Non delle antenne, no, del vino, perché lui c'ha del vino buono, capito? Lui c'ha il vino buono, salsiccia, formaggio, la pancetta compatta. dice, pancetta compatta e vamos. Sì, però io mi sento solo di pancetta, salsiccia, formaggio, vino, ma le baracchino poche trucca. Ehi, a te intende pure il baracchino. Vabbè Luca. Io conosco Hamilton, visto chi canta, chi bada. Tu Hamilton lo conosci? Ma io faccio il filtro. Cazzo, oggi provate a cucarmi e vedo le stelle. Mi sono con il cazzo attestato e vedo le stelle. Allora gli stessi mi apro la cosa, non voglio far vedere. Poi lasciami in bacia. No, sto aspettando a stanco. Allora, veniva, ma c'era 3 mesi a fare sì. La roba al garage. Sono qua, sto aspettando a lui. L'ultimo comò, ma a un anno ci buttendi. Ah. E se veniva a Franco adesso veniva a darti una mano, ma se poi mi sposto magari passa e non ci sono, capito? Ah, ha giù capito. Luca! Forse Luca è andato a accompagnare a Franco, là, qua stanno arrivando. Già va bene. Sì, un secondo solo che vanno a fare la pipì. Riprendi Antonio. Eccomi qua, hola. Ehi, Antonè, però l'è parito. Fra, già vai. Certo d'ora, ma non riesci a aprire il finestrino? No, ma dove sei? Passa sotto, io prendo un caffè. Sto aspettando a Franco. Ah, ciao Luci, ma col cassone sei, col furgone? Ah, sì, ma non c'è problema, non è fatto io di niente, capito? Il gruppo fa del fino, deve essere sceso sott'acqua. E vedi, fai bravo, Aelia. Oh, non è mai uscito così bene, perché l'hai appena amplificato. Oh, lui. Lui. Digi. Il sottosiero che mi ho fumato, però sono 3 e mezza, aspetta Franco, si muove, si prova a comprare le sigarette. Ciao Luci! No, non mi serve a me la camera ecco, cosa mai faccio la camera ecco? Io no! Aperto! No Luci, sono così, dai, mi sono andato così stamattina. Niente, ho uscito un automatista, siamo andati a Walter, ma non c'era, abbiamo rintracciato a Rimini lì sulla A14, però non ci ha risposto. Ciao Luci. Ah no, attenzione Franco California, ci sei? Luca. Per carità, no, 4.95, no, questa è una fatta. Bianco, ci sentiamo dopo.